24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 6:33 minuti, siamo pronti anche oggi a stare in diretta con voi fino alle 9, con 24 mattino, con la nostra Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè che ci dà il solito, ce lo dà il consiglio, ma tramite lui vi affidiamo il solito consiglio di quest'ora del mattino. But please relax. Ovviamente, come sempre, rilassati, tranquilli, con la nostra saracinesca, il nostro bar che si può aprire, e la nostra bella Nicole in forma. Il caffè volentieri a tutti quanti oggi. E qui un po' c'è già un quiz. Io la voglio salutare, ma chissà se lei riesce a salutarmi. Paola Saluzzi. Chi sono? No, salve. Ho appena twittato la voce da Frankenstein che sentirete. È la mia. Ieri Miriam Lucchetti mi ha risposto e il segno è che sono viva. È viva. No, ieri doveva spiegare. Ieri Paola Saluzzi non è andata in onda. Saluto anche il direttore Luca Dini di Vanity Fair. Direttore, buongiorno. Buongiorno, ieri, buongiorno Dir. Ecco, buongiorno, non è andata Paola. in onda. Peggio. Sono andata in onda per mezz'ora. Ah, peggio, poi peggio. Ho guardato la telecamera. Arbitro, sosticambio. Così, cambio per favore panchina, perché se bronzo cavallo erisimo sì, ma la voce se n'era andata, la voce se n'era andata, vabbè. Luca Dini, poi una donna senza voce non è che è un dramma, no? Ma che ragazzi, non ho parole. Non hai parole. Va bene, insomma, siamo con Paola Saluzzi, siamo con Luca Dini e vi voglio subito fare ascoltare il nuovo eroe della politica moderna. Sapete già, allora io dico una cosa. Io sto diventando lombrosiano e questo si sa, ma già uno che si autopresenta in un video così, cioè con queste, sentite le prime due parole, uno che si presenta così già subito deve insospettire. Ecco costui, sono Vincenzo Maruccio, 31 anni e origini calabresi. Sono nata a Vibo Valentia il 18 agosto del 1978. Cioè, non so se avete capito. Ecco costui. Sono Vincenzo Maruccio. Ma Luca Dini, ma che vuol dire ecco costui? Che è Ecce Homo? No, no, non ho capito. Ovviamente la laurea. Una drammatizzazione. Ecco costui. No, prego, me lo fate risentire. Ecco costui. Sono Vincenzo Maruccio. Ma come parli? Ecco costui. Sono Vincenzo Maruccio, 31 anni. E vabbè, al di là di tutto c'è. È stato arrestato, è l'ex capogruppo dell'Italia dei Valori. Si è giocato, pare, era un giocatore compulsivo, tanto che è già stato soprannominato il bombardiere, perché così vengono chiamati quelli che non si fermano mai, le slot machine. Pare che si sia giocato 100-120 mila euro, giocava 2-3 mila euro, perdeva in mezz'ora. Tra l'altro è andato nella sede di slot machine, il cui proprietario è un altro dell'Italia dei Valori. E mi ha sconvolto ancora, Paola, ti fornisco anche questa, si faceva mandare i risparmi della nonna dalla Calabria, cioè non solo si giocava. Questa è una malattia gravissima, con la quale il nostro paese, come altri paesi al mondo, fa i conti, che forse anche noi non raccontiamo abbastanza, ma perché c'è tanto altro da raccontare, per carità, però è un disastro vero, certo, diventano bombardieri. È così, un modo per massacrare la propria esistenza e purtroppo massacrarla anche agli altri. No, a mio modo di vedere, infatti, non so se anche Luca Dini è d'accordo, c'è un dramma nel dramma, al di là di si scherza tutto, si racconta anche della politica che, insomma, vede un altro arrestato, utilizzava probabilmente i soldi del partito, molto probabilmente. Però Luca, qui c'è anche un dramma nel dramma, c'è un giocatore compulsivo di queste macchinette. È una piaga mondiale e nazionale. A cui aggiungerei quella del gioco legalizzato, su cui peraltro lo Stato fa anche soldi. Io trovo sia una cosa terrificante, perché proibiamo tante cose e questa, che forse è la più dannosa, invece ci lucriamo sopra. Sì, perché il problema poi è quello, ne parliamo, ma qua ne abbiamo anche parlato in varie volte, ma appunto ci fa soldi lo Stato, e quindi essendo un gioco d'azzardo legalizzato ci sono le tasse, prendono le tasse su questo, e quindi dove bisogna fermarsi, dove bisogna porre un limite, bisogna porlo? Luca, noi spesso abbiamo ospitato anche i rappresentanti della categoria, lo dico, siamo la radio di Confindustria, li ho ospitati, della radio di Confindustria, del Sistema Gioco Italia, che dicono noi creiamo un indotto, creiamo posti di lavoro, però c'è un problema effettivo, no? C'è un problema anche di costi sociali, perché poi quello che ci si guadagna in termini di posti di lavoro e di indotto ci si rimette moltiplicato in termini di devastazione, di famiglie distrutte e anche di costi proprio concreti di riparazione di danni giganteschi. Il problema però è questo, cara Paola, l'ennesimo caso di politico che finisce in manette, e si parla sempre di soldi pubblici, di finanziamenti, di fondi, solite cose insomma. Alessandro, in vena di altri malatini di turno, ieri ho seguito come tutte le mattine la tua intervista con Nichi Vendola, tutte le mattine ovviamente sì. Ti seguo e abbiamo seguito in prima persona da sé con Sky il confronto delle primarie, i costi della politica, il rinnovo della fiducia da parte dei cittadini alla politica attraverso un finanziamento, un sostegno ai partiti, che deve esserci, deve far corrispondere ora o mai più una buona gestione trasparente della cosa pubblica. Non c'è più una lira, un euro, scusate, vecchio sì. Metodo su cui poter distrarsi, cioè o lo capiamo ora in maniera matematica, svizzera, clinica, o non lo capiamo più, e se non lo capiamo più saranno danni. Sì, a proposito di questo, visto che hai citato Vendola, possiamo assegnare la palma del politico in questo momento in Italia, possiamo utilizzare questa parola, sia questa più idiota? Allora, sentite il consigliere comunale di Viareggio, cioè sentite cosa ha twittato, Twitter a volte è il consigliere comunale di Viareggio, Andrea Di Pietro, twitta la codesta frase: Vendola è tanto viscido quanto la vaselina che usa. Eccolo lì. Proprio un lord. Vabbè, insomma, questo capita. Ecco, sul finanziamento ai partiti il tema è sempre il solito. Luca, ieri si poneva la questione, anche Vendola qui ha detto non bisogna dare in mano la politica solo ai ricchi, a quelli che hanno la possibilità. Questo è un grande tema. Va tolto del tutto, va fatto un vero rimborso? Qual è la tua posizione? Come dice Paola, io sono d'accordo, questo slogan ora o mai più mi piace tantissimo, cioè bisogna capire che la gestione dei soldi pubblici non ci possono più dire come li gestiamo è affare nostro, no, non è affare loro, soprattutto se c'è finanziamento pubblico devono rendere conto di ogni centesimo, come in tutte le situazioni dove c'è un contributo e bisogna rendere conto. Sentiamo per esempio come all'interno del partito la vivono Maurizio Zipponi, ieri sul fattoquotidiano.it l'hanno intercettato, è un esponente, viene una lunga storia sindacale, adesso è dell'Italia dei Valori, e lui la vede così il caso Maruccio. Guarda, Italia dei Valori, quando è stato indagato questa persona, gli abbiamo dato 3 ore di tempo per dimettersi. Negli altri partiti gli danno 3 anni. In 3 ore e 6 di mezzo se n'è andato. E il segnale che diamo a tutti quelli di Italia dei Valori, guardate che chi mette le mani nella marmellata in un minuto viene cacciato a calci nel culo dal nostro partito. Punto e basta. Ecco. Sono questi i lavoratori. Questa è la posizione di guardate Zipponi dell'Italia dei Valori, cacciato a calci nel culo. Però anche questa autodifesa, secondo me, ormai non lo so, direttore, regge ancora, cioè per carità regge, sì, l'hanno mandato via, ma qua nessuno si accorge di nulla fino a quando arrivano le manette, le guardie di finanza. A me sembra che insomma la famosa cacciata arrivi di solito 3 ore dopo che tutti gli altri se ne sono accorti. Sì. Sull'attenzione all'interno del partito ho qualche dubbio. Allora, intanto io vi devo dire che sono arrivati i giornali, non tutto, il Corriere della Sera non è arrivato perché è in sciopero, così risulta, e poi parlano tutti di tasse, detrazioni, il fisco, arrivano gli sgravi alle famiglie, arriva anche, ecco, attenzione, il carcere per i giornalisti. Ora, l'ultima cosa che vogliamo fare qui è una difesa di casta, e per carità, il carcere per i giornalisti. giornalisti. Voto segreto nel famoso iter sulla legge diffamazione, è stato reinserito con un voto segreto la possibilità anche del carcere per i direttori di giornali. Allora, che bello. Cosa, senti già il tintinnar di manette, Luca? Eh beh, a un certo punto uno aspira anche a quello. Come esperienza nuova. So, Paola Saluzzi, tu sei tranquilla? Paola, cioè... Ma io per ora sto collezionando arance, le metto da parte. Sì, per la voce, per la voce. Sì. Solo vitamina C, solo per la voce, certo. No, però il tema è, allora, oggi Alessandro Sallusti tuona sul giornale, dice: Maroni ieri mi ha spedito un libro in redazione con una dedica, caro Alessandro. Intanto mandava a dire ai suoi di mandarmi in carcere, visto che l'emendamento è della Lega. Ecco, è l'emblema. Beh, il libro era per... Il libro per passare il tempo, il libro, ti mando due o tre libri che ti avrai tempo per leggere. No, al di là di tutto, scrive Sallusti: nelle dediche di Maroni c'è la rappresentazione plastica della falsità dei politici. Oggi attacca, fate ridere, fate pena, siete vili, siete servili. Luca Dini, qui la questione è diffamare, no, è un reato e si sa. È giusto ipotizzare anche il carcere se uno compie un vero e proprio reato di diffamazione? No, non è giusto, ma cioè, come dici tu, non lo si dice per la difesa della casa. La verità è che lo stesso Sallusti a questo punto probabilmente spera quasi che vada a finire così, però è una cosa anacronistica, e soprattutto se lo pensano veramente lo dicano. Cioè, non ha senso questa finzione di dire uno scandalo e poi dopo in voto segreto finisce così. Voto segreto, è questo, Paola, che ha no, più... voto palese. La mia categoria politica, il mio gruppo politico, il mio partito dice: sbagliate, andate in galera. Me ne assumo la responsabilità totale. Torniamo alla chiarezza, esatto, di prima. Dovrebbe diventare questa una fase di cristallo. Sì. Direttore, scusami. No, dico, noi giornalisti siamo accusati di essere uno dei grandi mali d'Italia, i politici ci accusano continuamente di distorcere le cose, poi insomma però passiamo il tempo a registrare dichiarazioni, controdichiarazioni, smentite, correzioni, insomma. Sì, torna in segreto, col voto segreto. Tra l'altro Sallusti fa anche un'intervista al Fatto Quotidiano oggi e dice soprattutto: io sto sui coglioni a quelli del PDL, Gasparri mi odia, che poi non so se sia poi un grande demerito o una medaglia da mettersi al petto, questo non lo so, ognuno poi lo decida, però soprattutto sto sulle palle a quelli lì e sono loro i vigliacchi che io ho difeso per anni e che mi hanno ora in qualche modo pugnalato. E poi annuncia: non farò sceneggiate, settimana prossima mi consegno a San Vittore. Questo è un po', sta andando avanti da un po' di tempo, ma chissà se finirà poi mai in carcere. Speriamo ovviamente di no, il carcere non si augura nessuno. Che falsi questi del PD, Renzi però è eccezionale. A Napoli sono andati in piazza, così come ci vanno i musulmani nelle piazze mediorientali, a protestare contro qualcosa che nemmeno conoscono. Che tristezza, povera Italia. La disoccupazione è il polmone dell'evasione. Che schifo. È brutta, acida e cattiva la Frignero. Parte bene, vorrebbe colloquiare, ma poi il cabaret lo fa tutto da sola. Ma non ho mica capito. Libero si scandalizza che Mario Monti vada a un convegno di economisti. Quelli di prima andavano a puttane ed era tutto bene. Non capisco più niente. L'Agenzia delle Entrate va a controllare tutti quegli amministratori che spendono il nostro denaro in malo modo o no? Io non sono un monarchico e neanche la voglio la monarchia, ma forse una monarchia, questo è il bellino di questa nostra tanto amata democrazia con tanti re ladri. Allora, l'Italia è in ginocchio perché non arriva alla fine del mese. Il Vaticano è in ginocchio perché ringrazia che forse non pagano l'IMU. Vergogna per tutti, vergogna, vergognatevi tutti! Vabbè, suoni della nostra segreteria telefonica, e siamo con il direttore di Vanity Fair Luca Dini e con Paola Saluzzi, o ciò che di lei rimane della sua ciò voce. Che di mia danza. Ecco. Allora vorrei farvi parlare un attimo di donne d'oltreoceano, anche perché sul numero di Vanity Fair che ho qui davanti, che esce oggi e che in copertina vede Jake Gyllenhaal, ho detto giusto oggi, ho guardato Miriam Lucchetti, l'ho guardata in faccia e Miriam mi ha guardato con la faccia e dice: non dirmi che non sai chi è. E io: no, lo so benissimo, è quello che, e mi ha detto, quello che ha fatto Brokeback Mountain, è vero? Abbiamo una redazione preparata, direttore. No, allora, oggi ci sono due articoli che parlano di donne diverse in America. Michelle Obama, ovviamente, c'è anche una bella intervista a Sophia Loren che parla. E poi quella donna, o quell'intreccio di donne che ha terremotato la CIA. Fantastico. Quella è una vicenda, no? Paola Saluzzi, donna dice danno in questo caso? Appunto. Davvero vecchio stile, cambiano le divise, cambiano le situazioni. Non ti avvicinare, quell'uomo è mio, no, veramente non è tuo. Insomma, è molto imbarazzante il tutto. Purtroppo, condito, sì. Cioè, potrebbe essere un'eccellente lite da cortile. Ma qui invece c'è la CIA di mezzo. No, ma infatti, Luca Dini, in America le seguono adesso queste cose, perché si dice sempre... Assolutamente. Ma guarda, voglio dire solo una cosa. Tu dicevi prima che sei lombrosiano, io invece sto diventando bacchettone e un po' me ne vanto, perché secondo me comincio a pensare che la condotta privata e quella pubblica abbiano qualche collegamento. Però... Sì. Detto questo, ho sentito in questi giorni, mi ha dato un po' fastidio parlare di solita ipocrisia bacchettona americana. Questo signore, il capo della CIA, non si è dimesso perché semplicemente per quello che ha fatto, ma per chi era. È un problema di non essere ricattabile a certi livelli, sì. Ed era il problema che veniva ricordato ad alcuni dei nostri politici, insomma, a un politico piuttosto importante qualche tempo fa. Sì. Era un po' quello che diceva, insomma, il signore che diceva come rimproverano a Monti di andare al convegno di economia. C'erano altri che andavano da altre parti. Esatto. Il tempo delle pesche, il titolo dell'articolo che fate su Vanity Fair su questa vicenda. Sentite cosa ha detto Massimo Fini. Io Massimo Fini lo adoro, cioè lo leggo sempre con una passione tale, anche quando scrive il sabato sul Fatto Quotidiano, la prima rubrica che leggo, però sentite cosa ha detto la Zanzara dal mio amico Giuseppe Cruciani, Massimo Fini, sulla come la sua interpretazione del caso Petraeus. Il generale Petraeus avrebbe dovuto essere cacciato a pedate del sedere per gli errori che ha fatto come generale, non perché appunto ha tradito una moglie cessa per una ragazza bella. Una moglie cessa, Paola, questo è il commento. Qualcuno ha detto: ma l'avete vista? È la sosia di Michael Moore, la moglie di Petraeus. È ovvio che la tradisce, c'è cioè un maschilismo, Cos'è, Paolo? Un maschilismo totale. Ieri devo dire che in redazione questa battuta è uscita con delle mie colleghe. Giustamente una neomamma, tra l'altro, di una splendida bimba, Olimpia, ha detto: lasciala, divorzia. Vattene e poi sei libero di vivere come meglio credi. Ecco, anche l'arte del coraggio della valigia, diciamo così, dovrebbe essere, dovrebbe diventare, tornare di moda da ambo le parti. E invece invece lì aveva l'amante, poi c'è una terza donna, adesso c'è, hanno tirato in ballo anche un generalone, no? Quello che traffico, mamma mia alla CIA. Poi Alessandro, diciamo la verità, di giornalisti cessi ce ne sono tanti, insomma, se tutti si dovessero aspettare un simile trattamento questo sì. Allora io vi devo ringraziare e salutare Luca Dini, il direttore di Vanity Fair, il cui numero ultimo trovate da oggi in edicola, e Paola Saluzzi, che riceverò una querela da Sky perché le abbiamo rubato l'ultimo barlume di voce che ha. E quindi... avete fatto riscattare la voce, come si fa con i tenori. Va bene. Grazie, allora oggi sarai in onda alle 3 su Sky e grazie, ci sentiamo grazie settimana prossima se volete. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate,

il suo buongiorno sulla stampa di qualcuno di sinistra. Questo è il commento. Alla domanda del conduttore di Sky su quale fosse la figura storica di riferimento, i candidati alle primarie del centro-sinistra hanno risposto De Gasperi, Papa Giovanni, Tina Anselmi, Carlo Maria Martini, Nelson Mandela. Tutti democristiani tranne forse Mandela. Scelte nobili, ineccepibili, intendiamo, come sarebbero state quelle di altri cattolici democratici, Aldo Moro, Don Milani, evidentemente passati di Moro. Ma ciò che davvero stupisce è che a nessuno dei pretendenti al trono rosé sia venuto in mente di inserire un campionario, un poster di sinistra, Berlinguer, Kennedy, Bobbio, Foa, mica dei pericolosi estremisti, ma i depositari riconosciuti di quella che dovrebbe essere la formula originaria del PD. Diritti civili, questione morale, uguaglianza e libertà. Ecco, di qualcuno di sinistra è l'invito di Gramellini. Allora, vogliamo parlare di un aspetto della legge di stabilità, un paio di emendamenti. Lo facciamo con un ospite politico, un onorevole che è il vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera, l'onorevole Giuseppe Marinello del Popolo della Libertà. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e a chi ci ascolta. Allora, noi l'abbiamo chiamata perché abbiamo letto di un paio di suoi emendamenti a sua firma che ci hanno un pochino colpito. Il primo è questo. Allora, sono stati stanziati con l'emendamento 8181 10 milioni di euro per la ricostruzione post terremoto. Sì, però il terremoto del Belice del 1968, onorevole. Sì, e qual è il problema? Mi scusi. Insomma, leggerla così fa un po' stupore come notizia, no? Ma la notizia fa stupore, però bisogna sapere che in quelle zone il lavoro di ricostruzione non è mai stato ultimato ed esiste una documentazione acclarata da una serie di verbali, di prese d'atto e quant'altro, che dalla Presidenza della Repubblica financo alla dirigenza dei ministeri interessati, in particolare il Ministero dell'Economia, il Ministero della Coesione, il Ministero delle Infrastrutture, certificano che siamo ben lungi dal dire la parola fine a questa annosa vicenda. Che già questo, onorevole, mi perdoni, è un po' uno scandalo. Sa cosa scriveva il Fatto Quotidiano a maggio? Che siamo il paese dove i terremoti da catastrofi naturali si trasformano in catastrofe politiche. Com'è possibile non aver ancora ricostruito dal 1968? Le dico subito, quella fu la prima grande emergenza in cui si persero numerose vite e vennero cancellate intere comunità. Il paese non era per nulla attrezzato né dal punto di vista strutturale, né dal punto di vista organizzativo, né dal punto di vista legislativo. Il terremoto del Belice è stata di fatto la cavia per tutte le calamità che ahimè si sono susseguite negli anni successivi. Si sono persi pertanto i primi 15 anni in maniera assolutamente inutile, cioè la ricostruzione è di fatto iniziata non immediatamente dopo il terremoto, ma è iniziata circa 14-15 anni dopo, con devastazioni incredibili. Basti pensare ai grandi fenomeni migratori che sono... Però, onorevole Marinello, a me risulta sono stati messi 12.000 miliardi di vecchie lire, per carità. Dal 68 fino al 91 nell'ispettorato per le zone terremotate. Guardi, l'informazione non è corretta. Io le posso dire che il terremoto del Belice ha una estensione paragonabile a quella del Friuli e ha avuto, considerando l'attualizzazione delle somme, esattamente la metà rispetto a quanto il Friuli. Dove hanno ricostruito tutto in Friuli, peraltro. Sì, ma con il doppio dei soldi. Con il doppio dei soldi e dati praticamente nell'arco di 2-3 anni. Quindi secondo lei servono ancora soldi? Cioè servono... Guardi, le posso dire questo, che l'ultima presa d'atto da parte dell'amministrazione statale, sto parlando al Ministero delle Infrastrutture, quindi non le somme richieste al solito dai sindaci piagnoni o dal territorio piagnone, ma acclarato a livello centrale, dimostra che ancora praticamente siamo ben lungi dalla ricostruzione. Le dico ancora di più. Ma questo, scusi, secondo lei, onorevole Marinello, non è un po' scandaloso? Cioè che dal 1968 siamo ancora ben lungi da ricostruire? Sono passati, non so neanche più calcolare quanti anni sono passati. Perfettamente ragione, però mi risponda, di fronte a uno scandalo di questo genere la politica può fare due cose: o chiudere gli occhi o comunque porre il problema. Io, cioè, dando soldi. Tra chiudere gli occhi e porre il problema, posto il problema. Però la politica deve risolverlo dando altri soldi. Cioè, per me un sistema che in 40 e rotti anni non è riuscito a ricostruire dando soldi, lei dice metà di quelli del Friuli, ma comunque sono stati dati, è un sistema che ha fallito. Cioè, dove sono finiti questi soldi se sono stati dati? Scusi, se sono stati dati dei soldi, insufficienti per completare i lavori di ricostruzione, così come andavano completati, e allora i soldi sono serviti per realizzare le cose che sono state fatte, evidentemente mancano per completare. Allora, noi stiamo parlando di interventi di completamento. Mi lasci dire una cosa, ma lei sa che sulla benzina si pagano ancora oggi le accise per quel terremoto? E lei anche, sa che praticamente, anche per la guerra in Etiopia, però lei sappia che praticamente quelle la popolazione interessata non ha avuto nemmeno il 5% delle accise riscosse dallo Stato. E chi, dove vanno queste soldi? Se le tiene lo Stato? E vanno nel calderone unico di questo Stato, che nonostante tutti i tagli e nonostante i professori abbia notizie di ieri, non riesce a bloccare il debito pubblico e che praticamente avanza. Senta, però c'è un altro emendamento che riguarda i lavoratori socialmente utili, la stabilizzazione dei lavori socialmente utili. Lei con un emendamento è riuscito a far passare 1 milione di euro per stabilizzare i lavoratori socialmente utili, ma c'è una particolarità: questo vale solo per le città sotto i 50.000 abitanti, è così? Sì, le dico, allora per completezza di informazioni, questo emendamento rimedia un errore materiale del governo, perché praticamente questa voce, che non è 50.000 abitanti, la voce in realtà fa riferimento a a degli articoli di legge ben precisi, e questo emendamento di fatto rimedia all'errore del governo, che ha stanziato la stessa cifra degli anni precedenti, 150 milioni di euro, e che nel replicare la norma rispetto alle finanziarie precedenti, mi riferisco a quelle del 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, ha dimenticato una fattispecie che in quelle finanziarie era compresa. Se lei va a controllare la tabella del cosiddetto fondo Letta anche dell'anno scorso, troverà questa voce. Questo mi scusi, non è un finanziamento aggiuntivo. No, certo, non è finanziamento aggiuntivo, però 50 milioni è una voce che si vada, è una voce che esisteva e che era stata dimenticata e che è stata un milione esatto. Che vale, è vero che vale, me lo dica, perché io l'ho letto ed è così, per due città in Italia, una delle quali è Sciacca. Esattamente. Lei è nato a Sciacca. Scusi, voi parlate molto spesso, cioè la stampa parla di parlamentari lontani dal territorio. Io personalmente sono un parlamentare del territorio e nell'ambito degli interessi generali, perché stiamo parlando non di una somma aggiuntiva, ma di una somma compresa nello stanziamento che tutti gli anni lo Stato mette a disposizione dell'emergenza lavoratori socialmente utili, una grave dimenticanza. Per carità, si è molto battuto per il suo territorio. Però scusi, è un po' una politica ad personam o ad comunitam, cioè a tutta la città, ad Sciaccam, ecco, mi perdoni. Allora le dico subito per completezza di informazioni. E i comuni interessati non erano due, ma su certificazione peraltro dell'ANCI erano una quindicina. Nell'arco degli anni si è proceduto a una stabilizzazione e oggi quel bacino è enormemente ridotto. Anche a Sciacca, come lei dice, ce n'erano circa 200, adesso ce n'è poco meno della metà. Però voglio dire, lei dice ho fatto per completare un processo di, però onorevole, è importante, i lavoratori socialmente utili è un tema, quello della stabilizzazione, però lei lo ha fatto, dice, per il territorio, ma lei è riuscita a far passare una norma che i comuni erano 20 e adesso ne sono rimasti 2 soli, e che vale fino soprattutto per Sciacca. Questa vicenda, ma lasci perdere se la città o la città di un altro. Beh, però scusi, non è una non è che posso far passare il fatto che lei fa un emendamento che vale per la città che le ha dato i natali. È almeno, quantomeno, una coincidenza clamorosa, ecco. Ma non clamorosa, la trovo assolutamente logica e giustificata. Questa è una politica che dà le risposte al territorio. E dietro un emendamento del genere, così freddamente, una cifra del genere, che sempre ripeto non è aggiuntiva, esistono famiglie che sono in difficoltà ed esiste un'emergenza. Però questa sono in difficoltà dovute. Se uno non ha un parlamentare che è di riferimento della comunità che lo aiuta, che rimane in difficoltà, mentre i saccitani o i saccensi, come si dice? Saccitani, saccensi? Saccensi, ma non è questo il tema, le dico subito. Non credo che esistano comunità che non abbiano un parlamentare o dei parlamentari che nella stessa, che in quella provincia operino. Io mi occupo di temi di natura nazionale, se lei va a vedere gli emendamenti da me sottoscritti, va bene, che sono passati anche in questa legge di stabilità, finora ne troverà almeno 7-8, bene, no? Sì. E io mi sono occupato di problemi di interesse nazionale, va bene, e alla fine e anche di problemi territoriali. Anche problema territoriale. E questo secondo me il lavoro deve fare il parlamentare, le faccio un esempio. Però scusi, se tutti i parlamentari facessero così, tirando un po' di acqua al mulino della propria comunità, esproprieremmo un po' di soldi lo Stato, no? Cioè, se lei è il parlamentare di Sciacca, si batte per il territorio, c'è cioè il parlamentare di Forlimpopoli che farà lo stesso per Forlimpopoli, quello di Avezzano farà la stessa cosa, e così. Scusi un attimo, va bene, noi parliamo sempre di saldi invariati, quindi nessuno espropria niente a nessuno. Uno dei doveri che ha la politica è quello di indirizzare bene le risorse, questa è una delle poche competenze che ancora resta ai parlamenti, e quindi il Parlamento, in piena scienza e coscienza, indirizza bene praticamente le risorse laddove ritiene siano più necessarie e con modalità che siano trasparenti. Sì. Se lei permette, l'emendamento che oggi viene recepito dai relatori, anzi è stato recepito ieri nell'emendamento fiscale, che abbatte l'IRAP per le piccole imprese, per le medie imprese, per i professionisti, è stato proposto da me. Questo è un tema di interesse nazionale. Nel decreto sugli enti locali che è stato convertito, che è stato votato ieri e che ora va in conversione al Senato, l'emendamento del quale hanno parlato tutti i giornali, che praticamente rimanda di 90 giorni dalla presentazione. No, ma per carità, ma io non dico che lei. Mia, ma no, ma non sto dicendo che lei. Io non, allora, non sto dicendo che lei il Parlamento. Ma no, ma è chiaro. Ma onorevole Marinello, noi l'abbiamo chiamato per questi due emendamenti. Mica stiamo dicendo che lei è lì per fare gli interessi di Sciacca e basta. No, però... E allora, nell'ambito delle questioni nazionali, se in maniera assolutamente trasparente si danno anche delle risposte al territorio, bene così. Questo risponde, questo è meglio. È vero che lei ha detto al Senato, mi auguro che i fondi per il terremoto vengano anche aumentati ai 10 milioni. L'ho detto, bene, ed è un invito che faccio ai colleghi senatori. Colleghi senatori conoscono la vicenda. Sì. Lei sappia, allora le dico una cosa, visto che lei... Cioè lei ha strappato 10 milioni ma non sono abbastanza, ce ne vorrebbero di più. Mi scusi, come lei è un giornalista bravo, la prego di andare a leggere le ultime risultanze della commissione d'inchiesta sul terremoto del Belice, allora peraltro presieduta da un parlamentare della Lega, non da un parlamentare siciliano, e vado a vedere quelle risultanze. Da quelle risultanze, in una commissione parlamentare, quindi composta da senatori e da deputati, si acclara tutta la vicenda. Quindi se lei vuole fare un'inchiesta su questa questione, la faccia, però partendo da quella relazione. E allora, uno Stato che è serio e una politica che è seria, se fa una commissione parlamentare dove sono presenti tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione dal nord al sud e acclara determinate cose, ha il dovere di dare delle risposte. Va bene, mi lasci concludere. Sì. Se il Parlamento dovesse decidere nella propria autonomia di cassare la legge sulla ricostruzione del Belice, che è ancora una legge dello Stato, e lo faccio, si assuma la responsabilità. Lei invece l'appello che fa il senatore dice: se potete aumentate anche questi fondi, perché 10 milioni sono, ma senatori, se ascoltate, ce ne servono di più. La ringrazio intanto, buona giornata. Grazie a lei, onorevole Giuseppe Marinello del Popolo della Libertà, nato a Sciacca, ci ha raccontato questi due provvedimenti. Siamo qui alle 8:35 minuti. Allora, noi giornalisti a volte siamo anche un po' cattivelli quando uno ti appiccica un'etichetta, poi non la togli più. Allora, dopo aver avuto Batman fiorito, adesso Vincenzo Maruccio è il bombardiere già per tutti. Il bombardiere sono quei giocatori, così vengono chiamati, giocatori compulsivi che giocano alle slot machine, ai videopoker, non riescono a fermarsi, e così pare, secondo l'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ex capogruppo della Regione Lazio dell'Italia dei Valori, faceva Maruccio, che andava in una sala giochi di gioco d'azzardo legalizzato e si giocava fino a 2-3 mila euro in mezz'ora per arrivare a spendere un totale di 120-130 mila euro, questo sarebbe accertato dall'inchiesta, appunto in slot machine. Maruccio, che si presentava così nella sua autopresentazione in video qualche tempo fa. Ecco costui, sono Vincenzo Maruccio, 31 anni e origini calabresi. Ecco costui. Voglio salutare Filippo Facci di Libero. Buongiorno Filippo e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Ecco costui, non so, già questo fa una qualche tipo di considerazione. Uno che si autopresenta così a me già insospettisce, ma sono crudele, lo ammetto. Saluto anche Anna Maria Tedeschi, che è capogruppo dell'Italia dei Valori alla Regione Lazio. Buongiorno e benvenuta Tedeschi, grazie per essere buongiorno. Qui con noi. Immagino lei sia subentrata, diciamo, a Maruccio. Beh, certo. una volta che Maruccio è stato espulso, come diceva ieri Zipponi dell'Italia dei Valori, cacciato a calci nel culo nel giro di 3 ore, come facciamo noi all'Italia dei Valori. Non c'era davvero un antidoto? Adesso lei mi dirà, giustamente, e ci credo, che nessuno poteva sospettare quello che leggiamo dai giornali, no? Immagino, di Maruccio. Beh, lei mi sta anticipando. No, assolutamente. Tanto più che in Consiglio regionale del Lazio io ho svolto solo e esclusivamente attività politica, non avevo compiti di carattere amministrativo né tantomeno ero la tesoriera. Sia la gestione del gruppo dal punto di vista amministrativo, contabile, sia la parte della tesoreria erano tutte accentrate nella figura dell'ex capogruppo, come lui stesso ha ammesso sin dall'inizio di questa vicenda, lo ha dichiarato. Ma è possibile che secondo l'inchiesta avrebbe fatto autobonifici per 500.000 euro, prelievi in contanti per 456.000 euro? Cioè, che sistema politico è quello che permette a una persona di fare questo senza che nessuno se ne accorga all'interno del suo stesso partito? Allora, come lui stesso ha dichiarato, ripeto, la gestione dei soldi, usiamo un linguaggio crudo a questo punto, la gestione dei soldi era solo ed esclusivamente in mano a lui. La depravazione di questo sistema, lo dico a chiare lettere, di questo sistema, da quello che è risultato dal momento in cui questo scandalo è venuto alla luce, nasce nel combinato disposto del lavoro della Commissione Bilancio in Regione Lazio e dell'Ufficio di Presidenza. In pratica questi due organismi, da quello che ne ho dedotto anche io personalmente, sì, da quello che ho letto, da quelle che sono le inchieste, quindi Commissione Bilancio, di cui facevano parte ovviamente solamente alcuni consiglieri di maggioranza e alcuni di opposizione. Anche voi, immagino, anche voi dell'Italia dei Valori. Sì, ecco, vi dico anche i componenti, almeno per quello che mi riguarda, poi gli altri partiti, non voglio fare nomi di altri partiti. Allora, la Commissione Bilancio era presieduta da Franco Fiorito. Sì. Tanto per cominciare, sì, perché si è sempre parlato di Franco Fiorito come presidente del PDL regionale, questo è vero, ma era anche presidente della Commissione Bilancio, un dettaglio non trascurabile. E per quanto riguarda l'opposizione, ovviamente c'erano diverse forze politiche, sì, io parlo solamente per me ovviamente, il membro dell'opposizione dell'Italia dei Valori era Vincenzo Maruccio. Ah, lei dice che quindi insomma l'unico del partito è poi quello che non finisce qui purtroppo la storia. Poi c'è l'altro organismo, l'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza, ormai i membri di questo Ufficio di Presidenza sono arcinoti a tutta l'Italia. Sì. Anche lì ci sono diverse forze politiche, maggioranza tutte ovviamente, ed alcune dell'opposizione. Io parlo per me, non parlo per le altre forze politiche. Per quanto riguarda l'Italia dei Valori, nell'opposizione dell'Ufficio di Presidenza c'era l'onorevole Claudio Bucci. Allora Filippo Facci, no, aspetti, vi faccio fare una considerazione con Filippo Facci. Allora, ecco costui, si può buttarla come Filippo sull'ironia, sul, in realtà, il dramma di una persona che evidentemente era schiava anche del gioco. Questo si questa cosa dello schiavo del gioco fa tanto colore, ma stiamo parlando di una cifra relativa rispetto all'ammontare complessivo di quanto secondo i magistrati è stato sottratto, cioè 100-120 mila è stato speso in una specifica sala giochi di via Flaminia, però l'ammontare che è più ampio, certo, è quasi 1 milione di euro, quindi insomma non è che adesso dobbiamo prefigurarci una specie di alcolista o schiavo del gioco che poverino ha rubato per quello, nel caso sia vero che abbia rubato, quindi è un po' diversa la faccenda insomma. Quindi poi ecco, io non ho nessuna ragione di dubitare della come dire testuale ignoranza di quel che accadeva nel suo consiglio regionale da parte della consigliera dell'Italia dei Valori, però insomma questo va rilevato, che c'è un partito che forse al pari di altri, in questo caso forse anche qualcosa di più di altri, e un partito che, facendo della questione morale una questione fondamentale, insomma, della propria ragione sociale, ignorava e ha ignorato come in un breve, relativamente breve periodo di tempo sia stato sottratto circa 1 milione di euro da parte di una singola persona che non era, e questa è una cosa da spiegare, proprio il primo che passava come tanti altri di lunghi elenchi dell'Italia dei Valori, di candidati intendo e eletti dell'Italia dei Valori, che in passato insomma si sono rivelati dei poco di buono. Era un personaggio particolare di cui forse qualcosa si può dire. Che cosa, per esempio? Beh, Di Pietro lo stesso ha detto ho pianto dire, per lui. Evidentemente ci credeva, cioè, e poi si è sentito tradito. Se Marucci era la mela marcia, devono spiegarci che Di Pietro non era l'albero, nel senso era il suo avvocato, era un ragazzo che faceva parte dello studio legale dove c'era, oltre a essere ex assessore ai lavori pubblici e capogruppo dell'Italia dei Valori del Lazio, sì, era l'avvocato di Di Pietro nello studio di Sergio Scicchitano, che a sua volta è indagato per false fatturazioni. E che esercitavano, i quali appunto, dove Di Pietro aveva il domicilio professionale, luogo dove tra l'altro c'è un altro indagato ancora, che è il ragionier Norberto Spinucci, ex tesoriere dell'Italia dei Valori, indagato per riciclaggio pure lui, uno studio legale dove Di Pietro aveva, tra l'altro lavorava, perché c'è anche un cartellino che fu distribuito dove si spiega Antonio Di Pietro direttamente consulente di questo studio. Insomma è complicato per un accentratore come Di Pietro spiegare che effettivamente questo Manuccio doveva essere simpaticamente e incredibilmente abile per fare le cose non solo all'insaputa della signora con cui sto interloquendo, sì, la consigliera tedesca, del suo segretario. No, ma interessante questo, cioè la frase molto forte è: se lui è la mela marcia, non ci si deve spiegare se Di Pietro non sia l'albero, così dice Filippo Facci. Ecco, capogruppo Tedeschi, risponda a questo, perché lei dice, ha detto, era una persona totalmente, aveva il controllo singolarmente di tutto quello che succedeva, visto che sedeva anche la commissione bilancio e aveva il controllo finanziario, però i legami con Antonio Di Pietro, Filippo Facci dice, sono più profondi. Allora, io devo fare un passo indietro dicendo che cosa. Io sono stata eletta nel collegio della provincia di Frosinone. Io ho conosciuto sia Vincenzo Maruccio che gli altri componenti del gruppo Italia dei Valori il giorno in cui sono stata eletta. Cioè durante la mia campagna elettorale io non sapevo nemmeno chi fossero i candidati a Roma e in provincia di Roma. No, ma infatti le accuse non sono a lei. Tanto per dire che, come si dice in gergo, cioè, familistico, i parenti uno non se li sceglie, in questo caso i compagni di viaggio, in questo caso di partito, ovviamente non li ho scelti io. No, no, ma questo sì, ma infatti Filippo Facci si riferiva ai legami con il leader dell'Italia dei Valori, non con lei. Tanto per mettere una nota di colore, invece conoscevo molto bene Franco Fiorito, perché del mio stesso collegio elettorale, ovviamente parte opposta. E va bene. Allora, per quanto riguarda invece l'accentramento dei poteri su Maruccio, sì, questo è vero, c'era un accentramento di poteri notevole, anche perché lui, oltre ad essere capogruppo in Regione Lazio, era anche segretario regionale del partito. Sì, però le chiedo... No, ma certo, però mi scusi, il punto su cui... il punto su cui Filippo Facci puntava l'accento non era tanto i suoi rapporti tedeschi tra Maruccio e Di Pietro, era questo. Allora, di questo io non posso non sapere altro che i rapporti ci fossero, e fossero ovviamente molto stretti, questo è ovvio e è evidente. Lo stesso Di Pietro ha dichiarato che lui era all'oscuro di tutto. E quindi non aveva rapporti se non di carattere politico professionale, per tutto il resto, per le questioni private che adesso mano a mano stanno venendo fuori, il presidente Di Pietro era totalmente all'oscuro. Filippo, io non lo so, ci sono sempre degli aspetti, anche se si vuole, di colore, usiamo questo termine forse improprio, con Maruccio che pare si facesse mandare i soldi anche dalla nonna, dalla Calabria, da usare per le macchinette videopoker, oppure pochi giorni prima di dimettere battersi, ha fatto una proposta di legge sulle misure per la prevenzione e il contrasto della ludopatia in regione, perché nella premessa scrive: puntare denaro nei slot machine può creare dipendenza simile a quella degli stupefacenti. Questa è una proposta regionale di Maruccio. Al di là di questo, non so se si vuole insistere sul tema Italia dei Valori, però si ripropone il tema sempre del finanziamento pubblico ai partiti, perché sono soldi nostri, soldi probabilmente tolti dai soldi che noi cittadini diamo ai partiti, questi facci. Sì, a parte la ludopatia di Maruccio, che poverino magari appunto ne è stato vittima, cercava di uscirne. Anche proponendo una legge. Si faceva, sì, appunto. Però questo non toglie che insomma la legge sarà stata anche cattiva, però insomma l'ha infranta lui, e così come uno può criticare chi ti metta in mano la pistola, però insomma se sei tu che spari, insomma il responsabile sei tu. La legge è cattiva, lo sappiamo, bisogna cambiarla, però è la discussione su cui appunto politicamente anche bisogna secondo me rimanere, il fatto che Di Pietro i parenti invece se li ha scelti in questo caso, metaforizzando, perché Di Pietro è protagonista, si ritrova protagonista del solito dilemma del poteva non sapere, io sono garantista e penso che certo poteva benissimo non sapere. Il problema è che se non sapeva rischia un po' di uscirne come un imbelle, perché questo Maruccio, che tra l'altro è il ragazzino che ha vergato tante delle querelle di Pietro contro di noi giornalisti, era un personaggio del genere, e Di Pietro col suo celebre fiuto non ha immaginato nulla, e questo secondo me è qualcosa che al di là del fatto che la legge sia cattiva va detto e va rilevato, senza contare, senza citare che tra l'altro c'è tutto un altro filone di indagine dove Maruccio non è indagato ancora ma è coinvolto, e che riguarda una serie di questioni di appalti tra le regioni Lazio, Lombardia e Veneto e una cosca dell'Andrangheta. Quindi insomma sono cose pesanti, e quindi insomma concludere che c'è un problema di leggere sui finanziamenti un pochino a groviera e della quale i partiti si approfittano, beh insomma già lo sapevamo, e proprio perché già lo sapevamo magari ecco qualcuno che ha fatto della questione morale la propria architrave, e forse poteva starci un po' più attento, insomma piove sul bagnato in caso di su questo. Tedeschi, secondo lei il partito deve fare un mea culpa, cosa che peraltro sta già facendo dopo l'inchiesta di Report, dopo questa vicenda che riporta i riflettori ad accendersi su un partito che dice facci, è quello che ha portato avanti l'idea di dire noi siamo i moralizzatori della politica, e ora... Allora, per quello che riguarda il gruppo regionale, io sono stata nominata capogruppo e tesoriera dagli altri componenti del gruppo, nominata quindi dagli altri tre, diciamo, componenti, proprio perché si voleva dare un segnale di discontinuità. Discontinuità netta, tanto più che io sono quella, diciamo così, che viene proprio dalla campagna, da fuori, totalmente estranea anche fuori dalla Roma tentatrice, fuori dalla vita romana anche del partito. Quindi anche il segnale di aver nominato me come capogruppo e tesoriere ha voluto essere un segnale netto. E capisce che però questi segnali arrivano sempre dopo, per carità, cioè arrivano sempre dopo le inchieste, dopo le vicende, e poi dopo è chiaro che uno dà un segnale, però dopo. Per quello che riguarda invece il partito a livello nazionale, il messaggio di Di Pietro mi pare che sia stato molto chiaro, come lei diceva prima, anche Zipponi ha usato un'espressione molto forte per dire che lo abbiamo cacciato a calci in culo, ma io dirò di più, proprio perché non voglio essere né giustizialista né troppo garantista, nel momento in cui ci dovesse essere il rinvio a giudizio, io valuterò anche la costituzione di parte civile. Cioè gli richiede indietro i soldi in pratica? Ma per il gruppo, per tutto quello che è successo, ma se non addirittura altro, perché come ripeto, io questa persona me la sono ritrovata, ha causato un sacco di danni sotto tutti i punti di vista, a noi, a me e ai cittadini del Lazio. Sì, però scusi Tedeschi, è chiaro, lei dice continua a insistere se l'hai ritrovata, ma il punto è che invece Antonio Di Pietro, che non è qui per carità, non la voglio far parlare in nome per conto di Antonio Di Pietro, invece non se l'è ritrovata, cioè e quindi su questo il partito forse deve fare una riflessione molto ampia su come si selezionano le persone, non lei ma i Maruccio che poi vanno lì. Beh, allora, per quello che riguarda le prossime candidature, c'è stata un'apertura a 360 gradi, un totale rinnovamento anche per quanto riguarda la disponibilità ad accogliere candidature di non iscritti dai movimenti, dalla società civile, dal mondo dell'associazionismo, quindi una totale e massima apertura. Questo proprio per evitare che ci siano legami che possano in qualche modo poi compromettere la genuinità dell'azione politica di chi deve assumere ruoli importanti. Filippo Facci, ce la farà l'Italia dei Valori in qualche modo a passare questa tempesta che dalla vicenda Report poi sembra in qualche modo aggiungere un tassello ogni giorno? La mia opinione personale è che no, non ce la farà, e questo perché nonostante la presenza di persone magari in buonissima fede come la signora Tedesco, i partiti vivono dell'immagine che spesso brilla da parte dei loro vertici carismatici, come si dice oggi, cioè in questo caso Di Pietro, che appunto ha fatto della questione morale una ragione sociale, un titolo di diversità, invece sta venendo fuori l'ira di Dio, che al di là del fatto che si possa dire abbiamo cacciato calci in culo tizio, non toglie che il tizio ce l'abbiano messo loro o lui. E quindi insomma la differenza tra come direbbe Di Pietro, anche Gesù ha sbagliato qualche sì, insomma la differenza da parte dell'elettore che magari è incacchiato e si trova l'opportunità di votare Grillo piuttosto che la differenza tra il partito dell'Italia dei Valori e gli altri, a questo punto di vista è veramente difficile da cogliere. Allora io mi fermo qui, ringraziando Filippo Facci di Libero e Anna Maria Tedeschi, che è capogruppo dell'Italia dei Valori alla Regione Lazio. Potete riascoltare tutto su Radio24.it e se volete seguirci su Twitter, Alino Milan, sono io, 24 Mattino è la trasmissione, e ci siamo tutti, c'è Miriam Lucchetti, Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, c'è l'alpino Peter Bescapè. Vi diamo appuntamento a domani dopo la segreteria telefonica. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta.